24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la nuova manovra di austerità spagnola con 65 miliardi di risparmi e aumenti di imposte. Vi racconteremo nei dettagli le misure, come vi racconteremo le proteste esplose nelle strade della capitale Madrid che hanno visti protagonisti i minatori. Il vertice europeo ha segnato un progresso significativo, ma le decisioni in Europa sono come la tela di Penelope, afferma il premier italiano Mario Monti. Anche oggi vi aggiorneremo sulle ultime notizie dalla crisi, come vi parleremo dell'iniziativa della Commissione europea per un taglio delle emissioni automobilistiche e per regolamentare anche il copyright della musica online nel continente. Una delle principali novità sarà la omogeneizzazione. Aumento dell'IVA dal 18 al 21%, taglio di 3 miliardi e mezzo nelle amministrazioni locali, riduzione del 30% dei consiglieri comunali, eliminazione della tredicesima natalizia per i funzionari pubblici. Il premier spagnolo Mariano Rajoy annuncia al congresso la più dura manovra dell'era post-franchista che dovrebbe portare a risparmi per 65 miliardi entro il 2014. Una manovra che sarà approvata domani ed entrerà in vigore immediatamente. Manovra che segna una spettacolare marcia indietro per il premier iberico, che aveva promesso di lasciare l'IVA invariata. Ma i numeri sono lì a ricordare la necessità di misure senza precedenti, con un paese che quest'anno rischia un calo del PIL pari al 2%. Un giorno dopo aver ricevuto l'ok da Bruxelles per i primi 30 miliardi di ricapitalizzazione bancaria, Rajoy illustra la manovra lacrime e sangue, che contiene pure una riduzione dell'assegno di disoccupazione a partire dal sesto mese, un taglio di 600 milioni dei costi di governo e nuove imposte ecologiche e sul tabacco. Boati di disapprovazione dai banchi dell'opposizione, mentre tra le vie della capitale Madrid si scatenava la protesta sociale. Protesta incarnata dai minatori che manifestavano contro il taglio dei sussidi insieme ai principali sindacati. Nonostante una partenza festosa, la manifestazione è degenerata in scontri con la polizia, accusata di sparare proiettili di gomma ad altezza Duomo. Il bilancio finale, 8 arresti, 76 feriti. Non ci saranno ulteriori modifiche sostanziali alla bozza del memorandum d'intesa tra Spagna e Unione Europea per la ricapitalizzazione delle banche. Ad assicurarlo è il portavoce del commissario agli affari economici, Olli Rehn. La formalizzazione e la firma del memorandum sono previste nella prossima riunione dei ministri delle finanze dell'Eurozona il 20 luglio. Sempre a proposito della ricapitalizzazione delle banche iberiche, la Commissione ha precisato che ci dovrà essere una partecipazione dei privati per evitare un contributo iniquo da parte dei contribuenti, ma i titolari dei depositi non parteciperanno alla suddivisione del fardello dei debiti. I creditori privilegiati non saranno coinvolti, ha aggiunto Bruxelles. Dopo i successi in sede europea, il premier italiano Mario Monti si sfoga parlando all'assemblea dell'ABI. L'Italia ha intrapreso un percorso di guerra durissimo contro i diffusi pregiudizi, contro le eredità del debito pubblico, contro le sottovalutazioni da parte di noi stessi, contro gli effetti delle decisioni prese in passato e i vizi strutturali della nostra economia. Sentiamo cosa ha detto Monti sul vertice europeo. Credo anch'io che, senza che lo si possa sopravvalutare, il Consiglio europeo del 28-29 giugno, seguito dall'Eurogruppo dell'altro ieri, abbia segnato un progresso significativo, e siccome i mercati vivono naturalmente di messaggi di coerenza e di incoerenza dei messaggi, è facile che questa serie di decisioni assomiglia in qualche modo alla tela di Penelope, e questo senza nessun richiamo al grande storicamente paese al quale Penelope apparteneva. Nubi nere infine sull'economia francese. I prossimi mesi saranno terribili, così il premier Jean-Marc Ayrault avrebbe avvertito i propri collaboratori parlando della crisi, e il presidente François Hollande sarebbe pronto ad aumentare la CSG, il contributo sociale generalizzato, tassa imposta su tutti i redditi, per finanziare il welfare. Continua a lanciare messaggi allarmanti il premier finlandese Jyrki Katainen. La situazione dell'Eurozona è molto pericolosa, ha affermato al quotidiano finlandese Helsingin Sanomat. Ed è tornato anche sulle questioni che hanno innescato recenti polemiche, in particolare con l'Italia, sulle nuove misure anticrisi decise al vertice europeo. Tutti i paesi vogliono mantenere l'euro. Le divergenze riguardano il tipo di misure che questo richiede, ha rilevato Katainen. Soprattutto il premier finlandese ha avvertito che ormai nell'Unione Europea tra stati e popolazioni non ci si fida più come prima. No a ulteriori riduzioni degli stipendi minimi. Lo ha affermato il ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale greco Giannis Vroutsis alla fine dell'incontro con la direzione della Confederazione Generale dei Lavoratori Ellenici nell'ambito degli incontri tra le parti sociali. Gli aiuti dell'Unione Europea al sistema bancario rappresentano al massimo il 5% del PIL comunitario. Lo dice il commissario per la concorrenza Joachim Almunia, intervistato dal quotidiano francese Les Echos. L'Europa si sbrighi a firmare un accordo di libero scambio con il sud-est asiatico, se vuole essere competitiva, lo auspica la cancelliera tedesca Angela Merkel da Giacarta. Ora i mercati, seduta senza mordente per le borse europee, a eccezione di Madrid, che ha festeggiato il maxi piano di austerità lanciato dal governo. Il listino iberico è avanzato dell'1%. Francoforte e Parigi hanno cambiato più volte direzione, così come Milano, dove il FTSE MIB ha chiuso a meno 0,05%. Seduta senza mordente per le borse europee, a eccezione di Madrid, che ieri ha festeggiato il maxi piano di austerità da 65 miliardi di euro lanciato dal governo spagnolo. Il listino iberico avanza così dell'1,1%, Francoforte più 0,2% e Parigi meno 0,5% cambiano più volte direzione, così come Milano, dove il FTSE MIB chiude a meno 0,05%. A Piazza Affari il leggero calo dello spread BTP Bund, attorno a quota 450 punti base, favorisce le grandi banche, con Intesa San Paolo più 2,1% e Unicredit più 2,2%, quest'ultima migliore delle blue chip dopo la riorganizzazione in 7 mini banche. Acquisti anche su Enel Green Power più 1,3%, Ansaldo più 1,2% e Snam più 0,9%, mentre Mediolanum più 0,5% festeggia i buoni dati legati alla raccolta di giugno. Ondata di vendite invece sul settore del lusso, dopo la crescita sotto le attese nel periodo aprile-giugno dei ricavi di Burberry. Ferragamo e Tod's hanno perso rispettivamente il 6,5% e il 4,7%. Fiat Industrial, meno 4,4%, paga i timori per la siccità negli Stati Uniti e Mediaset, meno 3,2%, il sell, ovvero il giudizio a vendere, emesso dagli analisti di Soggen. Ancora vendite infine su A2A, meno 2,6%, che aggiorna i minimi storici. Sul resto del listino scivola Fonsai, meno 4,9%, in attesa del via libera all'aumento di capitale. Ciò Condina da Radio Core per Radio 24 e Sole 24 Ore. I governi si contraddicono. Nel vertice del 29 giugno hanno sottoscritto il patto per la crescita e per il lavoro, ma oggi hanno chiesto il taglio di 5 miliardi dal bilancio 2013, dei quali 3 miliardi e mezzo dai capitoli di spese dedicati a crescita, lavoro e competitività. Questa la denuncia del commissario europeo al bilancio, Janusz Lewandowski, in una dichiarazione in cui si dice stupefatto della decisione presa dalla riunione degli ambasciatori comunitari. La Commissione europea deciderà mercoledì come agire nei confronti della Romania. Ad annunciarlo la commissaria alla giustizia Vivian Reding. I punti di forte preoccupazione a Bruxelles riguardano la pressione esercitata dal governo sulle autorità giudiziarie rumene, i limiti della competenza della Corte Costituzionale e la rimozione dell'Ombudsman contro la corruzione. Voltiamo ora pagina. Dopo un lungo braccio di ferro tra l'industria tedesca e quella italo-francese, la Commissione europea ha presentato un nuovo regolamento per tagliare le emissioni delle auto dal valore di 130 grammi per chilometro nel 2015 fino a 95 grammi per chilometro nel 2020. Molti diranno che 95 grammi è una soglia troppo ambiziosa, ha affermato la commissaria al cambiamento climatico Connie Hedegaard. Noi non siamo d'accordo, è un obiettivo molto ambizioso ma anche raggiungibile, ha aggiunto. I risparmi stimati per i consumatori equivarranno a oltre 3.800 euro nell'intero ciclo di vita dell'auto. E sempre la commissione ha aperto un'inchiesta approfondita sugli aiuti offerti dal governo regionale della Sassia in Germania alla Porsche per verificare se siano conformi alle regole europee sugli aiuti di Stato. Bruxelles ha approvato infine una proroga della sovvenzione italo-francese a sostegno di un servizio sperimentale di autostrada ferroviaria alpina sull'asse di Gione-Modane-Torino. La proroga consentirà a Italia e Francia di portare a termine la procedura di concessione avviata nel 2009 del servizio di trasporto ferroviario di merci. L'adesione all'Unione Europea è un obiettivo strategico della Serbia, poiché saranno garantite nuove opportunità per lo sviluppo dell'economia nazionale. Ad affermarlo a Belgrado è il presidente Tomislav Nikolic. Nikolic ha sottolineato che la Serbia, attualmente paese candidato, attende di conoscere al più presto la data di inizio del negoziato di adesione all'Unione. Migliorare la varietà e l'offerta legale della musica online, regolamentando per la prima volta a livello europeo le società di gestione collettiva dei diritti d'autore. Questa è la proposta presentata dal commissario al mercato interno Michel Barnier, che intende rendere più agevole ma anche più trasparente la gestione del copyright nei 27 paesi comunitari. Era questa l'ultima notizia, è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.